I. Ascolta e indica l'orario da rispettare. 1. Sono le 10:40. Sono in anticipo. Il mio corso comincia fra 20 minuti. 2. Sono le 8:40. Ho fretta. Devo arrivare al binario 2 e prendere un treno fra 5 minuti. 3. È l'una. La banca apre fra un'ora, ma resta aperta solo per un'ora. 4. Sono le 2. Aspettiamo ancora un quarto d'ora e se il cameriere non porta almeno l'antipasto, andiamo via. 5. Finisco di lavorare alle 5 e mezz'ora dopo ho un appuntamento dal dentista. 6. Il taxi è qui alle 19 e impiega circa tre quarti d'ora, al massimo un'ora per arrivare all'aeroporto.